Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Buonasera, apriremo il giornale questa sera con una notizia che abbiamo verificato per tutto il pomeriggio e che vi diamo in esclusiva. Una notizia importante perché la conferma del nuovo pugno di ferro di Papa Francesco sui casi di pedofilia che riguardano religiosi. È stato arrestato questo pomeriggio in Vaticano con l'accusa di pedofilia, ed è un arresto che non ha precedenti, un arcivescovo polacco, Wesołowski, che peraltro era già stato fatto rimpatriare, era nunzio a Santo Domingo, un arcivescovo con un ruolo importante proprio perché su di lui erano piovute le accuse pesanti di pedofilia. Ebbene, era già stato praticamente processato questa primavera dentro le mura vaticane. Ecco, questo è l'annuncio di Enrico Mentana. Probabilmente la notizia sarà stata ampiamente anche analizzata da altri telegiornali, ma nessuno ha avuto coraggio di darla. Perché? Perché non sa mai dove si va a toccare. Lui l'ha data, è stato il primo, e tutti hanno sobbalzato sulla sedia. Sì, è la prima volta nella storia della Chiesa, perlomeno della Chiesa moderna, che un Papa prende e fa mettere ai ceppi un alto prelato a tutti gli effetti. Poi è chiaro, arresti domiciliari, ma il Vaticano è tutta una casa, la cella del Vaticano è come se fosse un appartamento, siamo d'accordo, ma a tutti gli effetti paragonabile alla situazione del Vaticano, è stato arrestato il Papa, come oggi dice un giurista sulla stampa di Torino, come fosse un antico monarca, da ordine di arrestare un suo altissimo ufficiale. Certo, viene da pensare che qualcosa è realmente concretamente cambiato, non sono più soltanto chiacchiere, qua non è soltanto un parroco sporcaccione dei tanti che vengono via presi, sistemati, organizzati, messi comunque in situazioni di sicurezza o magari spostati a una parrocchia vicino dove ricominciano da capo. È stato incriminato di aver compiuto abusi sessuali verso bambini in maniera ripetuta, compulsiva. Aveva persino un suo portaborse che andava a prendergli i ragazzini e glieli portava, quello che leggo sui giornali. Ma ancora prima di essere stato a Santo Domingo era stato in missione in Kazakistan, Tagikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan. Insomma, volendo e tornando indietro, probabilmente se il lupo non aveva perso il pelo e nemmeno il vizio, probabilmente questo bel prelato che vediamo, figaccione al massimo, con la sua veste bianca e porpora, con i polsini, con il gemello che escono, non un bottone fuori posto, un bel orologio al polso, probabilmente qualcosa c'è, sicuramente è stato già giudicato. Beh, voi come la pensate? Pensate sia veramente una svolta o è soltanto una delle tante operazioni di facciata del marketing della Chiesa? O pensate seriamente Papa Francesco questa volta abbia fatto qualcosa che non ha precedenti nella storia? 800240024. Arrestato in Vaticano con il consenso del Papa un arcivescovo polacco condannato per abusi su minore, Józef Wesołowski, 66 anni, ex nunzio apostolico a Santo Domingo, a giugno aveva avuto la condanna canonica in primo grado e per questa era stato ridotto allo stato laicale dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. L'alto prelato, che recentemente ha fatto appello contro la sentenza, è stato fermato dagli agenti della Gendarmeria Vaticana su ordine del promotore della giustizia della Santa Sede, che gli contesta di aver adescato alcuni ragazzini su una spiaggia di Santo Domingo pagandoli per fare sesso. Diversi testimoni che accusano Wesołowski di pedofilia sia nella Repubblica Dominicana, dove è stato nunzio dal 2008 al 2013, sia in Polonia. Il nunzio andava a fare la spesa sulle spiagge a Santo Domingo, già che andasse sulle spiagge un cardinale mi sembra strano, però nella piena libertà di andarci andava anche a raccattare ragazzini pagandoli per farci sesso. Ignazio Ingrao, buongiorno. Buongiorno a voi. Vaticanista e Panorama ha pubblicato il libro Concilio Segreto, edizioni PM, che è una storia fra la fantasy e la realtà, deriva dalla sua esperienza di vaticanista di lungo corso. La notizia abbiamo già sentita. Ignazio, il tuo giudizio è qualcosa di epocale veramente, un precedente unico? L'avresti mai immaginato una cosa del genere? Ma dunque, certamente è un atto dalla grande valenza simbolica, però permettetemi di sospendere un po' il giudizio per vedere un po' come andrà a finire. Non dimentichiamo che il nunzio era stato già ridotto allo stato laicale, quindi aveva perso l'immunità diplomatica e si trovava sul territorio italiano, quindi poteva essere sottoposto a estradizione o in un carcere domenicano o in un dominicano oppure in un carcere polacco. Con questo atto invece di essere trattenuto agli arresti domiciliari in Vaticano, in qualche modo la Santa Sede dice che lo processerà in Vaticano e rimarrà in Vaticano finché non avrà anche eventualmente scontato la pena. Faccio una domanda: è peggio finire in un carcere domenicano oppure stare agli arresti domiciliari in Vaticano? La tua domanda, ecco, mi dà molti retroscena. Gli è andata di lusso, perché così almeno gli hanno salvato la pelle. E non soltanto quella, per andare con un'accusa di essere un pedofilo in un carcere di Santo Domingo, secondo me gli passava la voglia nei prossimi 50 anni poi. Ecco, tutte le vicende un po' anche del Vaticano vanno viste nella loro complessità e articolazione. Dico sospendere il giudizio perché saremo a vedere, una volta che sarà terminato anche il processo penale in Vaticano, vedremo se sarà consegnato poi alla giustizia polacca, quantomeno che ha già aperto un procedimento nei suoi confronti. E questo è il punto: sappiamo bene che in Vaticano si dividono due grandi partiti, coloro che sostengono che i preti pedofili vanno immediatamente consegnati alla giustizia civile e lì processati, e quelli che sostengono che invece vanno i panni sporchi, in qualche modo vanno lavati in casa e quindi vanno processati in casa. E faccio un'altra domanda: perché Monsignor Scarano, per i famosi reati finanziari, è stato immediatamente consegnato, lasciato alla giustizia italiana, eppure anche lui risiedeva e si muoveva in Vaticano, e invece Wieslowski è stato arrestato e trattenuto dentro al Vaticano? Ecco, questo è un punto su cui dovremmo interrogarci. Quindi praticamente questo atto di giustizia forte, plateale, senz'altro pieno di significati, ha salvato la vita a tutti gli effetti, perché se fosse andato a Santo Domingo non credo se la sarebbe passata molto bene in un carcere di Santo Domingo. È obiettivamente indubitabile, nel senso che certamente, ripeto, è un grande atto simbolico, però dice anche, ecco, allo stato attuale, al momento, noi non consegniamo né alla giurisdizione polacca né a quella di Santo Domingo questo che ormai è ridotto allo stato laicale, questo cittadino polacco e vaticano, ma lo processiamo in base alla legge penale vaticana, la nuova legge penale vaticana, che stabilisce che per un reato commesso anche all'estero però si possa essere processati anche in Vaticano. Diciamo, se fosse stato decisa questa operazione con la mentalità d'ancien régime, ma il vescovo poteva anche scomparire, poteva andare da qualche parte, poteva ritirarsi in qualche... cioè, delle maniere per scamparla comunque l'avrebbe avuta, secondo me, nelle maglie infinite della provvidenza vaticana. Hanno voluto mettere insieme due situazioni che alla fine fanno bene a tutti. Cosa rischia adesso però? Cosa rischia lui? Una volta può rischiare una pena fino a 35 anni, perché così stabile la pena massima stabilita dal codice penale vaticano. E dove li sconterebbe? Nel caso? Li potrebbe scontare in Vaticano, il che significherebbe una detenzione magari ai domiciliari, potenzialmente in Vaticano, sino praticamente per tutta la sua pensione fino alla morte potrebbe rimanere in Vaticano, se poi non viene consegnata alle altre autorità polacche o di Santo Domingo. È proprio qui il punto. Ecco, questo è un elemento, considerato che lui ha comunque fatto anche appello per quello che riguarda il processo canonico amministrativo penale, cioè la riduzione allo stato legale, che è la massima pena dal punto di vista del codice di diritto canonico, ovviamente, per un chierico. Cioè lui non può dire nemmeno messa, non può dire in teoria pubblicamente. No, assolutamente, no, nemmeno privatamente, è proprio ridotto allo stato legale. Cioè rimane prete ma non può esercitare assolutamente. Esattamente, e però c'è poi anche il codice penale dello Stato della Città del Vaticano, e quindi ha quest'altro procedimento che poi anche questo avrà i suoi gradi di giudizio, insomma. Ecco, volevo sentire anche il giudizio di un'altra collega che, con un altro taglio più di cronaca, di investigatrice di cronaca, ha seguito dei processi che riguardano appunto questo aspetto vergognoso e problematico della Chiesa, che è Angela Camuso. Angela Camuso, buongiorno. Buongiorno. È giornalista dell'Unità, Unità, se ancora c'è l'unità, non lo so. Autrice del libro non c'è più, quindi però è l'ultimo. Al momento no. Diciamo idealmente. Autrice del libro La Preda, Confessione di una vittima, edito Castelvecchi, con prefazione di Dario Fo, che parla di un caso di cronaca molto noto, di un parroco romano che è stato condannato. Ecco il tuo punto di vista su questo episodio. Ma io penso questo. Bisognerà vedere se ci saranno in futuro altri casi del genere che porteranno il Vaticano a prendere di iniziativa fatti di pedofilia che porteranno a processi penali, che porteranno a provvedimenti di restrizione della libertà personale come questo. In questo caso è stata la magistratura prima ad agire nei confronti dell'arcivescovo. Ci sono molti casi di pedofilia che vengono denunciati dai parrocchiani, dalle comunità, che arrivano ai vescovi, che arrivano Angela, non so se tu l'hai visto, Vaticano, in rete. Bisogna vedere se anche in questo caso, anche quando la magistratura non ancora, ad esempio, iniziato un procedimento penale, cioè quando ancora la Chiesa può nascondere questi fatti, bisognerà vedere se allora a quel punto la Chiesa avrà il coraggio di affrontarli diciamo prima ancora della magistratura, qualora la magistratura non ne fosse a conoscenza. Volevo dirti, Angela, scusami. La rivoluzione. Sì, non so se tu l'hai visto, facendo qualche ricerca oggi l'ho visto. Qualcuno spontaneamente, e non credo sotto nessuna forma ufficiale, ha già fatto in rete l'elenco dei sacerdoti incriminati in maniera definitiva, condannati in maniera definitiva per atti del genere in Italia. C'è proprio l'ordine alfabetico. C'è un caso clamoroso che io ho seguito. Sono tutti i nomi. Ho fatto un servizio con la Gabbanelli per il Corriere della Sera online. C'è il caso di un prete nel vicino Bolzano che è stato condannato in via definitiva, attenzione, dalla giustizia italiana, e che però essendo stato assolto a suo tempo in un procedimento canonico, essendo diciamo la pena tecnicamente, essendo stata prescritta la pena, quindi lui non può godere, diciamo, non può più essere messo in carcere, gli arresti eccetera, di fatto la Chiesa lo ha trasferito in un'altra parrocchia e adesso lui è a capo dell'oratorio, quindi continua ad avere contatti con i bambini, perché appunto il processo non aveva assolto, nonostante che poi in seguito ci sia stato il processo penale che lo ha condannato in via definitiva, e questo è incredibile, se vogliamo, perché vuol dire che a quel punto io capisco ha negato, sì, la giustizia diciamo dello Stato italiano, e l'ha rimesso a che fare con i bambini. Melog, cronache meridiane. Zero zero ventiquattro, stiamo riflettendo su quale sia la vera portata, la concreta portata dell'atto clamoroso di Papa Francesco di aver fatto arrestare un importante prelato che era stato appunto incriminato per aver compiuto atti sessuali su bambini, su minori, soprattutto durante il suo incarico a Santo Domingo. Sentiamo qualche ascoltatore e poi riprendiamo con i nostri ospiti. Andrea, buongiorno. Dottor Nicoletti, buongiorno. Io volevo semplicemente dire che secondo me la portata di questo gesto è una portata molto ampia, gesto molto grande, molto importante, e finalmente è una risposta alle domande che parecchi fedeli si pongono, e la domanda principe è: ma perché la Chiesa non fa nulla o quasi contro i pedofili? Sono contento che Papa Francesco abbia dimostrato ancora una volta. Lei è un credente, Chiesa... è un credente, per capire il... Sì, io sì. Sì. Quindi è soddisfatto di questo tipo di operazione? Sono soddisfattissimo, ma non solo per questo tipo di presa di posizione da parte di Papa Francesco. Papa Francesco sta facendo tutta una serie di cose, tutta una serie di azioni che in un certo senso ci si aspettava. È qualcosa che è iniziato con Papa Wojtyla, non è andato molto avanti con Papa Ratzinger, finalmente alcuni argomenti sono stati ripresi in maniera, direi, corretta e forte da parte di Papa Francesco. Io non sto a fare la classifica dei papi su questo argomento, diciamo, sì, che si è più mosso Ratzinger di Papa Wojtyla, a essere proprio sinceri. Poi me lo confermeranno le persone che più di me ne sanno. Marco, buongiorno. Marco? Sì, pronto. Spero si senta bene perché sono in viaggio. Sì, sento. Niente, volevo solo confermare anche la mia impressione, che è quella di chi effettivamente ha agito non tanto per una questione di facciata, ma semplicemente per avere una visione più pragmatica, secondo me, del suo incarico di Papa, e diversa dagli altri. Ecco, c'è un concetto pragmatico che è molto importante, è una svolta che secondo me deve essere assecondata e valorizzata. A questo proposito mi sono permesso diverso tempo fa, naturalmente non ho avuto nessun esito, quello di proporre agli uffici del Vaticano anche l'effettuazione di eventuali indagini preventive. Non aspettare quando la patata bollente, diciamo, viene fuori, ma cercare in qualche modo privatamente di anticipare quello che è il servizio, il lavoro delle forze dell'ordine. Il suo navigatore l'ha interrotta, prendo l'occasione, riprendo con Ignazio Ingrao, ricordo vaticanista di Panorama. Mi sembra aver capito all'inizio che ancora però, diciamo, dei due grandi fondamentali mali della Chiesa, proprio da un punto di vista di un osservatore esterno, lasciando perdere poi i discorsi interni legati ai veri e propri problemi della fede, uno è questo della uscita allo scoperto di questo lato marcio della pedofilia nel clero, e l'altro è quello appunto altrettanto marcio dei soldi strani che giravano in Vaticano. Ecco, sull'altro fronte hai notato aperture altrettanto eclatanti, a parte il non arresto del responsabile di cui hai citato prima? No, dunque il Nunzio Scarano non è stato arrestato in Vaticano, ma è stato consegnato alle autorità italiane, quindi è appunto, come sai, agli arresti, diciamo, nello Stato italiano. Mi volevo correggere rispetto a quanto rischia dal punto di vista del codice penale vaticano il Nunzio per pedofilia: rischia dagli 8 ai 20 anni massimo di carcere. Sul versante dell'economia e della finanza, il Papa ha creato un consiglio per l'economia che si sta occupando di tutta quanta la materia, ha chiuso un migliaio di conti allo IOR che non erano, diciamo, come dire, legittimi in base alle norme dello IOR, e sta cercando di portare avanti questa operazione trasparenza. Ha modificato anche quelle che sono, diciamo, le funzioni dell'amministrazione del patrimonio della sede apostolica, ed è in cammino su questo. Ecco, e qui è appunto la questione, cioè il Papa sta cercando di indicare una rotta, su questo non c'è dubbio, anche con atti e con gesti simbolici. Chiaramente però le difficoltà ci sono, perché c'è una struttura che resiste. Non dimentichiamo che questo nunzio di cui parliamo oggi era una, diciamo, delle pupille dell'occhio di Papa Wojtyla, di San Giovanni Paolo II, grande amico del suo segretario, il cardinale. Non era una persona laterale, era una persona molto centrale. No, è intervenuto anche in occasione poi dei funerali di Giovanni Paolo II e via dicendo, quindi insomma era una figura di primissimo piano. Questo per dire come si va a toccare delle situazioni e dei gangli molto, molto delicati all'interno di questa struttura. E onestamente me la sento di dire, in piena coscienza e prendendomi la responsabilità, mi sembra impossibile che delle voci così insistenti, diciamo, sulle sue attività extra lavorative non fossero circolate prima. No, però purtroppo il Vaticano è intervenuto dopo che è uscita un'inchiesta giornalistica a carico di questa persona, proprio a Santo Domingo, per attraverso la penna di una coraggiosa giornalista del posto. A quel punto è intervenuta la Conferenza Episcopale di Santo Domingo, che ha fatto delle segnalazioni, poi alla fine si è intervenuti anzitutto sollevando questo arcivescovo dal suo incarico di nunzio. Quindi ahimè, diciamo, non è che c'è stata un'iniziativa immediata. Quando non si poteva più fare a meno, non si poteva più fare a meno. Angela Cabuso, solo una battuta perché siamo in conclusione. Hai visto, hai letto il nuovo libro scritto dall'ex amante di Renatino De Pedis, dove parla appunto di suoi rapporti con Marcinkus, di tratte di bambine dentro e fuori il Vaticano? Trovi che sia qualcosa legato a delle realtà, o entriamo nel grande filone fantaromanzesco attorno banda della Magliana e annessi? Ma guarda, io dall'ultimo colloquio che ho avuto con gli inquirenti, l'ex amante di De Bevis non viene considerata comunque una testimone attendibile, ed è per questo anche che di fatto l'inchiesta che si è riaperta sul caso di Emanuele Orlandi si è chiusa. Riprendiamo questo argomento con Angela Camusa, a me la sigla ci dice che dobbiamo interrompere.